America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. This land is your land, this land is my land. This land is my land. Beh, la terra americana oggi 4 di luglio si celebra la festa dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America e la festa forse più sentita nel paese. L'America è chiusa, piena estate, grandi barbecue, le famiglie che si riuniscono, insomma un momento sempre molto toccante. Ecco, gli Stati Uniti d'America nascono sulla base dell'ispirazione rivoluzionaria che trova le sue radici nell'illuminismo e l'illuminismo a sua volta trova le sue radici nel Rinascimento. Perché vi parlo di questo? Perché oggi, 4 di luglio, 14 ragazzi americani di 16-17 anni che studiano nelle scuole pubbliche di New York e di Los Angeles, scuole difficili, famiglie che non sono benestanti, che non potrebbero mai immaginare di poter mandare i loro figli all'estero, molto spesso alcuni di questi ragazzi non lasciano neanche i loro quartieri. Ebbene, vi dicevo, questi ragazzi arrivano oggi a Firenze per studiare il Rinascimento grazie a un programma organizzato dalla Palazzo Strozzi Foundation USA. Rina De Sisto è l'executive globale di Bank of America per le attività culturali di questa banca. Credo che il suo sia forse il lavoro più invidiato fra le varie posizioni di alto livello che si possono avere nel corporate world americano. Ebbene, Rina De Sisto e la sua istituzione hanno appoggiato questa iniziativa di Palazzo Strozzi e, come avete sentito, presentava i ragazzi che hanno vinto questo concorso nella serata in cui sono stati consegnati i premi. What we do is we try to bring the study of humanistic discipline, humanism, into public school system in America. We started with New York. Beh, spero che qualcuno di voi abbia riconosciuto la mia voce. Ho partecipato a questa serata, a questa premiazione. Dico subito che sono coinvolto direttamente in questa iniziativa filantropica, me ne sono occupato fin dall'inizio. Vi parlo molto, molto spesso di filantropia, di quanto sia importante partecipare al volontariato. Questa mia partecipazione è totalmente volontaria e dunque trovo che sia giusto che insomma non solo se ne parli, ma anche in qualche modo si facciano delle azioni concrete. Quindi incoraggio chiunque mi sta ascoltando di pensare seriamente a qualche cosa che abbia a che fare con il volontariato, perché è davvero rewarding, come si dice in inglese, molto gratificante, dà delle soddisfazioni che credo il denaro non potrebbe mai dare. Sicuramente a me ne ha date nel vedere questi ragazzi, spesso figli di immigrati che arrivano dalla Nigeria, dall'Africa, da ogni parte del mondo, e che a un certo punto si appassionano al Rinascimento e decidono di partecipare a un concorso su una materia che in fondo gli è lontana. È un'iniziativa questa, tra l'altro, che Palazzo Strozzi fa in partnership col Dipartimento dell'Educazione di New York e con il Dipartimento dell'Educazione di Los Angeles. Pensate, è il più grande Dipartimento dell'Educazione del mondo, con 2 milioni di studenti e con oltre 1 miliardo di dollari di fatturato. Eppure i soldi, ovviamente, quando si tratta di fare scuola a milioni di ragazzi, non bastano mai, e dunque l'aiuto, grazie a donazioni di istituzioni, vi ho detto Bank of America, ma ci sono ovviamente molti privati, alcuni banchieri, alcuni italoamericani come Gio Perella, come Mario Gabelli, come l'ambasciatore Daniele Boldini. Ci sono molte aziende, vi ho detto Bank of America, che ha ospitato questo ricevimento al 51esimo piano del grattacielo, ma ci sono anche Brooks Brothers, la Chrysler, Estée Lauder, ci sono state anche l'ENI, Banca Intesa, insomma una gran quantità di queste istituzioni sono mobilitate per far sì che questo programma, che da una parte porta l'immagine importante del Rinascimento, dei valori rinascimentali che sono così importanti per la tradizione americana, in questo paese, con l'obiettivo di aiutare i ragazzi a studiare l'umanesimo. Si parla molto di scienza, si dice che l'America è indietro nello studio della scienza. La scienza è sicuramente importantissima e fondamentale, però insomma lo studio dell'umanesimo è altrettanto importante. Dunque questa iniziativa in qualche modo consente di portare un po' dei nostri valori, che sono poi riconosciuti come dei valori universali dalle Nazioni Unite, in America. My name is Satanji Agosa. Thank you all for attending this special celebration. It is a true honor to be standing before you today. Satanji Agosa, ecco la voce di una delle ragazze che ha vinto questo premio. Erano cinque ragazze qui a New York. Setonji è una ragazza africana, è arrivata qui da bambina dalla Nigeria. Il padre, ci ha raccontato in questo breve discorso, la portava in libreria nonostante fossero, insomma, persone relativamente umili, e chiude questo suo discorso dicendo: beh, la cosa importante è che il lavoro paga. Ho lavorato duramente per questo saggio, sono riuscito a vincere questo concorso. Ecco, sono tutti come Setonji questi ragazzi, e questa è la forza dell'America, cioè è la rigenerazione di persone che meritano, che riescono ad andare avanti, che si applicano. Beh, vi racconto la storia di un'altra di queste ragazze, Moke Tonane, viene da Burma, sono scappati, è arrivata qui che aveva 10-12 anni e è andata a vivere col fratello che ne aveva appena 3-4 più di lei, 16, il padre che era un rifugiato politico poi è sparito, la madre era rimasta a Burma. Ecco, questa ragazza adesso ha 16 anni, il fratello si è dedicato a lei, e insomma il fatto che lei possa aver vinto questa borsa di studio che le consente di venire nel nostro paese, di studiare il Rinascimento in modo molto intenso, di andare poi a viaggiare nelle nostre più belle città, a Venezia, a Milano, a Roma, oltre che a Firenze, ecco, rappresenta per lei e per tutti gli altri ragazzi certamente un traguardo che poteva sembrare impossibile. Ecco, questa è la vera forza della filantropia, la filantropia disinteressata, che ha, devo dire, radici molto più profonde in America di quanto non abbia visto in altri paesi. E dunque mi sembrava appropriato in questa giornata in cui si celebra il 4 di luglio questa grande festa americana, questa grande società americana che continua a puntare sulla meritocrazia, che continua a credere nel grande sogno di questo paese. Ecco, mi sembrava che la coincidenza con questi ragazzi che a loro volta si sono sforzati per raggiungere nuovi traguardi e che arrivano oggi nel nostro paese fosse simbolicamente adatta a questa straordinaria festa americana. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho detto che questa settimana la sto dedicando a un riepilogo dei primi sei mesi del 2013 nella musica, e lo sto facendo con la NPR, che ha pubblicato una classifica delle migliori canzoni uscite finora nel 2013. Oggi vi propongo dei Savages, She Will. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!